Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, Marco, ci vuole un po' di ritardo accademico, è uno ritardo assolutamente accademico, circa 20 minuti, ci dobbiamo sistemare anche gli strumenti, cosa dici Marco? Quindi... Va bene. Buonasera al nostro gruppo che viene da Macerata, ha fatto un buon viaggio, un lungo viaggio, però un viaggio soddisfacente, vero Heidi? Come state? Bene? Bene. Vi vedo freschi, riposati nonostante l'attesa, siete pronti a suonare, a fare due orette di musica... La vostra musica, un disco meraviglioso il vostro, molto molto interessante, complesso, pieno di tante facce. Le raccontiamo queste facce? Innanzitutto ci presentiamo, Celeste, dai. Allora, Celeste, presente. Voce tastiera degli Edi. Qui in questa formazione c'è Paolo Ticà al glockenspiel, Claudio Innamorati alla chitarra, ciao. Daniele Gatto alla batteria, Ione Spio alla macchina fotografica, e Giacomo Santarelli, aiutante e guidatore irlandese. Ah, perfetto, benissimo. Un gruppo composto bene, fotografi, musicisti, una vera band in tutti i sensi. No, in realtà siamo 5 musicisti, ma qualcuno non è pronto stasera. Ah, non è pronto. Allora abbiamo lasciato la macchina fotografica. Ho capito. Proprio un amore. Cioè, quando il nostro direttore artistico, che è Alberto Pisco, il quale salutiamo, ci ha proposto di questo disco, noi siamo stati pienamente soddisfatti, io e Marco. Un disco molto bello, affascinante per certi versi, affascinante fin dalla copertina, Celeste. Sì, la copertina è vera, è molto bella. È stata fatta da un grafico, Luigi Cozzolino. Sì. E in realtà lui inizialmente ha sentito la musica e ha apprezzato la musica, da lì si è ispirato, ha iniziato un progetto, non sapendo chi eravamo in realtà. Cioè, non ci siamo mai visti fisicamente. Certo. Poi però è riuscito in pieno a realizzare quella che era la nostra idea, e soprattutto ha disegnato una bimba con i capelli rossi. Certamente, ecco. Esattamente, sì. Non sapendo che io avevo i capelli rossi. Le telecamere sono accese, le telecamere sono accese, quindi c'è poco da fare, non puoi nasconderti. Una cosa interessante, ho letto tutte le critiche molto positive del vostro disco e molti hanno parlato, non occorre andare nel nord, Macerata è qua, nel nord. È così. Sì. È così. Perché sì. Nel nord, Celeste? Ci sono tanti riferimenti alla musica nordica, forse. Agli islandesi, esatto, c'è sì. Björk, c'è Kate Bush, ci sono Sigur altre Ross, Sigur Ross, sì, c'è, sì, ci sono cose anche americane. In realtà, forse sì, per questo studio, questo gioco nel silenzio, esatto. Rumore, silenzio, esplosioni sonore, molto ritmiche. Cioè, all'inizio è decisamente diverso da tutti gli altri dischi che ho sentito, ne abbiamo sentiti tanti io e il nostro direttore artistico. È un inizio un po' particolare, possiamo dire questo, Celeste? Sì, è un po' spettrale. È un po' spettrale, sì, esatto. La un prima po'. Traccia è una sorta di sovrapposizione vocale a cappella. Esattamente. E tutte voci sovrapposte che a forma di canone un po' si... Si intersecano. Sì, si intersecano, si domandano e rispondono. Io non potrei. Spettrale, no, un po' decadente, cosa posso dire? Decadente sì. Così. Il nostro direttore in pectore, secondo direttore, mi sta mettendo a posto le cose. Ci fa belli. Questo ci fa belli. Cosa dite? Marco, cosa dici? Facciamo sentire un pezzo da questo disco meraviglioso e poi ne parliamo ampiamente. Abbiamo tempo fino a mezzanotte ed oltre. Ok, facciamo partire. Questa cosa allora ci spaventa un po'. Perché vi spaventa? Perché siamo un po' timiditi. No, non vedo che siete timidi, assolutamente no, a me non sembra. Fa casino, no, però le parole sì. Sì, allora partiamo con She's Happy, se perfetto. Non ho capito male. Okay. Perfetto. Certo. We'll be right back. Marco, cosa dici questo pezzo che comincia sparato e poi lentamente, progressivamente termina? Alla mezzistà l'ho detto io, Marco, non so se sei d'accordo. Beh, sì, verso la fine comunque un gran bel pezzo, direi molto Sigur Rós. È molto Sigur Rós. Questo è molto Sigur Rós. Celeste, cosa va dici? Bene, ci piace, ci piace. Sì, è molto Sigur Rós. Come l'avete costruito, Celeste, questo pezzo? Allora, in verità la genesi non la ricordo. Mm. Però solitamente tutto parte da un inciso, una melodia, un ritmo. Poi si forma da solo e molte cose... Cosa c'è? Che mi guardi male? Questo era il giochetto dei bambini. Sì, vabbè, il ritornello, l'inizio, come è nato. E poi tante cose vengono poi sviluppate proprio in studio. Mm, ma come create un pezzo? Come lo sviluppate? Allora, si parte da... Da un tema semplice. Una melodia. Non parte mai Il nostro fotografo è qua, si è risposto. Non parte mai dalle parole. Quindi sì, è la musica praticamente comunicativa nel senso di contenuti. Mm. Quindi parte dalla musica, in quel caso lì il giochino... del ritornello tan tan tan tan tan tan tan tan, era un gioco intorno al re, al tono di re, no? Certo. Quindi si è partiti dal ritornello per poi dall'inizio questo ritmo tu fino alla fine, esplosioni, tamburi, poi dal vivo ci sono varie sovrapposizioni di timpani, coriandoli che volano, acqua. Quindi siete a te, fate un pezzo di scenografici allora. Come le fate queste cose? Come hai detto? E scemografici. Non mi pare che sia queste così. Queste cose allora, una volta una volta abbiamo messo l'acqua nei timpani, ma io sono diventata una bestia inferocita. Perché t'hanno lavato completamente. Perché avevo da poco questa North Stage, non so se si può dire. La tastiera, si può dire. Ecco, molto costosa, quindi molti sacrifici per prendere questa tastiera e arrivavano gli sghizzi d'acqua, quindi... Mi hanno indicato, il fotografo qui davanti a me, mi ha indicato gli schizzi d'acqua che sono rimasti qua. Poi abbiamo cambiato idea, quindi il pagliaccio di turno che solitamente mette anche una maschera. L'ho vista, dopo la mettiamo, con le telecamere ti hanno visto in ogni caso, hai messo la maschera. Cioè, sono il pagliaccio. Ha scelto i coriandoli che sono... più belli perché più colorati, sempre carnevale, non badiamo a stagioni né periodi e sono anche meno pericolosi per gli strumenti. Quindi io sono stata molto felice, come dice la canzone, lei è felice, è nata per questa cosa dei coriandoli che hanno sostituito l'acqua, in realtà. Che hanno protetto... Piano ci arriviamo. Ti hanno protetto la tua tastiera praticamente. Esatto. Ma erano d'accordo loro a sostituire l'acqua con i coriandoli oppure no? No. Era più bello. È più scenografico l'acqua, foto, no? Queste bolle. È bello. Maccheroni. Quindi i concerti si fanno anche con questa scenografia, queste idee, ma vengono sviluppate via via durante il concerto o sono già prefissate precedentemente? No, non sono prefissate. Alcune volte, molto spesso sono proprio improvvisate dal gasamento che c'è istantaneo, però lavoriamo molto nelle immagini perché la nostra musica... tende ad andare pari passo a uno sfondo di immagini, appunto, quindi attraverso delle proiezioni a volte si creano questi scenari insieme a noi, cioè non solo noi perché non siamo nemmeno belli, allora dietro mettiamo delle cose più belle tranne il bassista che è molto bello, che è nascosto però, e però oggi fa il fotografo. Non c'era spazio, Marco, anche per il basso, mi sa. Basta, si poteva segnare, si un poteva po', stare ci poteva, no hai deciso di no. Bene, cosa facciamo, Marco? È un po' in ritardo, quindi possiamo far suonare, cosa dici? Ma direi di sì, un pezzo dal vivo direi che ci starebbe bene adesso. Va bene. Siete pronti? Celeste, sei pronta? Pronti. Bene. Sì. Eseguiremo il pezzo numero 2 del disco aereo di Matt Heidi. On the second floor. Tu sei il direttore d'orchestra praticamente. Ok, è il bacchetto. Gustav Mahler. Thank you. Marco, una Nina Lana lisergica, questa cosa dici? Acida al massimo, bellissimo, pezzo bellissimo. Io mi ero anche addormentato all'inizio, visto che non avevo alzato le tastiere. Però hai capito il volo, qual era il punto fondamentale. Poi ti sei scatenata, Celeste, alla fine hai dato forza a tutte le cose. Tutti gli archi, sì, tutti gli archi della tastiera. È un reading continuo, è un reading musicale questo qua, una performance totale. Sì, questo è un brano abbastanza complesso, ritmicamente, cambia molto, dal 6 ottavi, poi va in 2, poi in 3, è un continuo saliscendi. Prima si parlava tanto di dinamica, in realtà anche nella nostra musica ce n'è tanta. Ce n'è tanta di dinamica. Tanta. La musica c'è classica ha insegnato tanto. Un pelo di progresso. Un pelo di progresso, sì, esattamente. Ora è difficile, magari, in questa situazione, darne un'idea, però dal vivo spacca. E si spacca. Spacca. Il sonoro di spacca. Spacca. Il titolo del disco? Il titolo come si pronuncia esattamente? Prego. Prego. No. Dunque, è Heidi Meet Heidi o Heidi Meet Heidi? È Heidi. Come si pronuncia? Dimmi. Che caos. Voto? Uno. Dimmi. La pronuncia è esatta. Allora, Heidi. Matt Heidi. Ah, come si scrive proprio? Sì. Ah, perfetto. Okay. Questo è stato in realtà un giochino complicato per mettere alla prova chi toccasse con mano questo disco. Perché... come vi chiamate? Heidi. Ah, Heidi. No, non è Heidi. Allora abbiamo voluto mettere tutti e due i termini insieme, così guardando uno vede che sono delle lettere diverse, quindi probabilmente anche una pronuncia diversa. Okay. In realtà Heidi è come si legge, perché non è una sigla, ma rimanda agli Aedi, che erano dei cantori nella Grecia antica, quindi mettevano in musica gli ignomerici, c'è tutta una tradizione storica musicale, no? Invece Heidi è quel povero personaggio che abbiamo spopolato in tutte le interviste, ma chi è Heidi? È sempre Heidi con le caprette. Cristina D'Avena, certo. Sì. Non c'entra niente, però Cristina D'Avena è ritornata in auge anche con Heidi. Allora, votazione mia 0, perché proprio l'ha pronunciata totale. Però musicalmente è un'altra cosa, al di là del titolo, musicalmente. Sì, è anche un accostamento di caratteri che sono nel disco, quindi c'è il lato accademico che è racchiuso dagli Aedi, no? Perché è legato appunto alla musica classica. E dall'altro lato un aspetto più divertente, più spensierato, giocoso, stupidino, che è nella fantasia e nell'immaginazione di Heidi. Dimmi. Che c'è? Punk. Punk. Cosa dici, Marco? Sono punk. Ti proporrei di dare un microfono anche a lui. Sì, no, perché sennò va avanti e indietro. No. Ciao, sono Mandi. Beh, punk con nel termine quello più giusto, quindi uno associa il punk ai Sex Pistols, ai Ramones, invece punk è proprio secondo me un'attitudine. Un approccio, un'attitudine alla musica. Non al genere, no, ma all'attitudine. Dopo sei mio. Non è bello. Comincio a preoccuparmi. Qualche critico ha scritto che certi paesaggi vocali ti si avvicinano a Elizabeth Fraser. Cosa sei d'accordo? Chi è? Come chi è? Chi è? Dovevi fargli la domanda prima, Maurizio. E se ne andò. È una musicista di molto livello che suonava tra gli 80 e i 90 con un gruppo molto importante della 4AD. Della 4AD. Beh, che Bash la conosci, però. Che sì, Bash sì, la conosci, sì, vabbè. Ci limitiamo a Kate Bash. Ci hanno associati a questi nomi degli anni 80 per un uso alto, soprano. È vero questo. È la cantante dei Cocteau Twins. Esatto. Ok, bastava. Bastava dirlo, ma... ma io volevo capire se arrivavi... Leggo le leggi, guarda, le recensioni. Io non le leggo le recensioni, cioè è quello che mi tramanda, no? Hanno detto ma questo, sono recensioni che... positive, Celeste, sì, tutti quante positive, veramente positive, senza ombra di smentita, quindi, ma da rumore, dai giornali speciali, rumore, Roccherilla, Il Mucchio Selvaggio, Blow Up, tutti quanti hanno recensito splendidamente il vostro album. Sono il manager, ci comunica. Tu che sei il manager della band, sai già ste robe, no? Voglio essere sincero. E mettiti davanti il microfono, però. Cioè, la verità è che sono anche il manager. Ah, ok. Direttore, manager. Ti vedo bene come direttore, hai proprio le bacchette, eccetera. Le bacchette giuste. Bene, 23-24, proprio 23-24 in questo momento. Cosa dici, Marco? Sentiamo un altro pezzo da disco? Cosa sei d'accordo? No, facciamo, beh, facciamo suonare, dai, facciamo sì. suonare. Suoniamo. Cosa? Che facciamo? Suoniamo. Master. Ok. Non so che. Versione normale. Mai dove andate a parare praticamente cioè, nel caso parliamo dimmi nel caso non caos. È semplice per, nel caos. No, non è un caos questo assolutamente. C'era anche il bassista che ha partecipato, sì, al Battimani, chiaramente molto molto divertente e molto bello. Questo è un pezzo abbastanza normale tra virgolette, possiamo dire questo, sei d'accordo? È il più radiofonico forse, anche per il minutaggio delle durate. Sì, mi dica maestro. Lunedì 27. Cosa c'è? Lunedì 27 esce in anteprima assoluta, assolutissima, il videoclip di questo brano. Ah, bene. Che diciamo è un po' angosciante, agrodolce. Uno stile agrodolce. Angosciante per la mia insolazione futura. Chi l'ha fatto il video? Videoclip è stato girato da Pallonero Film di Recanati, che è la città di Leopardi. Certo. Ecco, delle Marche. Anche la città di Vanni. Di Vanni, di tanti altri amici. Michele Senesi, regista di questo video. Videoclip che uscirà il 27 in anteprima sul portale Shiver TV, Shiver Webzine. Webzine. Puoi metterti vicino al microfono? Okay. Lui ha più informazioni. No, perché si capisce poco se non quando parli. Perché io certe volte faccio la radio, no? Bene. Però faccio la spalla e so, tipo, mi chiamano Tom Jones. Perché? Non parlo. Perché non parlo? Però sei un direttore d'orchestra stasera. Faccio con le vacchette, mica parla. Beh, questo, ritornando a questo pezzo normale, come ti ho detto, Celeste, era introdotto dalla chitarra sua. Come mai? C'è proprio così nella struttura del pezzo. Sì, sì, sì, questo segue proprio la versione elettrica. Non parla mica lui, beh. Non deve parlare. Lui non sente, non parla. Ho capito. Ciao Giallo. Abbiamo provato una volta, ho fatto parecchie gaffe. Allora, nell'angolo. Suono basta. Ho capito. Quindi praticamente solo Celeste e forse il nostro direttore d'orchestra qualche volta parla. Avevo fatto una premessa che se mi domandavate qualcosa interveniva subito lei. Subito Celeste, bene, capito. Beh, questo è un pezzo molto divertente, fatto bene, ma ha detto che è la versione normale, l'altra versione un po' fuori com'è? È uguale, cambia uguale. Solo la chitarra, c'è cioè l'elettrica, la batteria suona. Sì, è proprio una versione elettrica, ma segue gli stessi giri. Ma è andato, il batterista è andato calmo, appena toccato. È difficile che lui sia calmo. Sì, è un po' agitato, musicalmente parlando. Sono troppi ricci che vanno a destra. Per cui. Troppi capricci. Benissimo, 23:31 esattamente, 23:31. A proposito di Fortali, hai parlato di Fortali, dove possiamo recepire il vostro disco? Dove possiamo trovare, se vogliamo? Allora, che sito avete? La cosa migliore sono i concerti, cioè noi principalmente vendiamo tanto dal vivo, umanamente proprio. Altrimenti il nostro sito è www.aedimusic.com. Perché ridi? Tutto bene. Non ci prende mai. E poi da lì ci sono tutti i vari link alla pagina Facebook, YouTube per i videoclip, alle foto, tutto. C'è un po' di tutto praticamente. Un nuvetto di tutte cose. Quindi per poterlo avere fisicamente dobbiamo venire ai vostri concerti. Sì, oppure nei vari punti di distribuzione della... scritti nel sito. La distribuzione è Audioglobe, quindi possiamo acquistarlo anche sul portale Audioglobe. Oppure sui negozi che comprano Audioglobe. Audioglobe. Abbiamo capito, quindi una distribuzione molto importante, grossa, quindi il disco si trova abbastanza, dico facilmente, ma abbastanza si trova decisamente. Yeah, bene. Audioglobe. Sempre Audioglobe. Un'altra, però precedentemente avete fatto qualcosa, un EP prima di questo disco, come sì, si chiamava? Sì, allora, nel 2009 è uscito l'EP Polish di 4 tracce. Che ha scosso sì. piacevolmente tutti. Sì, è stato ben apprezzato, devo dire. Bene. Nonostante fossero solo quattro tracce, cioè, è difficile prendere in poco tempo. Invece sono delle tracce, devo dire, abbastanza lunghe, che raccolgono vari stili, ha un approccio più pop rispetto a questa di Mettaidi, che invece è più altalenante. Ma anche là ci sono dei riferimenti che poi abbiamo elaborato un po' di più. Cioè in quali? Di Mettaidi, per esempio, la terza traccia che è Flower Moondles, cioè questo piano minimale che ci porta avanti per più di 10 minuti. Bello. Lo faremo anche qui se volete. Certamente. Abbiamo preparato questa ninna nanna sonora. Non è d'accordo Marco, lui ama particolarmente i pezzi allungati, vero Marco? Ma casomai lo facciamo alla fine? Certamente facciamo alla fine. Sto scherzando. Oppure finiamo non più frizzante. Non abbiamo problemi con i limiti dei brani, possono essere anche lunghi mezz'ora, non c'è problema. No. Non esistono guai. Sappiamo adattarci alle situazioni, acceleriamo, rallentiamo, vediamo un po' gli sguardi e poi variamo. Fra i tanti riferimenti Marco, tu hanno citato i Broken Social. Cosa dici bene. Marco? Sì, stavo pensando, ma per loro ne avranno sentiti centinaia di riferimenti. Comunque sì, come, anche qua come struttura del suono, come Anche come idea sull'EP, quello di fare i pezzi un po' più lunghi. Quindi sull'EP io vedo un po' l'EP come uno strumento per il gruppo per poter fare delle sperimentazioni che magari su un album è un po' difficile, no? Beh, diciamo che l'EP Polish è un 4 pezzi di passaggio, mentre stiamo sviluppando un suono molto nostro che poi sfocia in Aedi Mettaidi. Fischio quando parlo, perché devi stare fermo poi. Se ti muovi in continuazione è impossibile. Allora fai così, prenditi il microfonino piccolo, allora. Come il prete, questo è proprio, ecco, numero 4 te lo prendi, ecco, preghiamo, ecco, vai benissimo con quello, dai. Allora mi dicevi dell'EP. È stato un EP di passaggio, diciamo, anche un'esperienza bella in studio che ci ha permesso poi di compiere un passo in più, che è Aedi Mettaidi. Ah, che è arrivato l'EP, cioè molto, il disco più diciamo completo. Diciamo che l'EP non è... diciamo non rispecchia esattamente quello che volevamo tirar fuori in quel momento, però non sapevamo come farlo. Però... poi siamo riusciti a farlo, infatti siamo molto soddisfatti del CD. Ok, volevo chiederti una cosa, visto che parli poco, adesso ti chiedo una cosa. E mi suona anche il timpano, non ce l'hai mica qua stasera il timpano. Ah, ciao, sono io Paolo Tica. È sempre lui. Suona di tutto allora praticamente. Sì, perché... in questa sera cosa suoni? Glockenspiel, no? No, stasera Glockenspiel, poi userò questo strumento chiamato triangolo. Ah, triangolo, e poi un'altra cosina che ho visto prima. Sono le campanelline. Ah, campanelline. E poi se mi gaso sfondo il timpano. Ah, ok. Dunque, Celeste suona la tastiera, tu la batteria, chiaramente, tu la chitarra. Solo la chitarra. La chitarra è qualche volta in Glockenspiel. Ah, ecco, anche suona in Glockenspiel. Benissimo. Il nostro bassista fa il fotografo stasera. È sempre seduto qua vicino per immortalare immediatamente. Ecco, l'imprevedibilità. Voi siete un gruppo imprevedibile dal vivo, secondo me. Uno non può sapere che scaletta fate. O meglio, la fate, ma... sì, è così, è già prestabilito tutto. Alla testa, tutta la testa. No, siamo... molto precisi. Ah, molto. Dopo questo è tutto un modo per sdrammatizzare la precisione, ecco. Non vogliamo essere troppo precisi. Non è vero. Non è vero. Vi state divertendo in ogni caso, quello è importante. Con delle ottime musiche. Se abbiamo scelto... noi abbiamo scelto fortissimamente Alberto per molti mesi, vi ha cercato e finalmente siete venuti, vuol dire che siete un gruppo valido, c'è poco da fare. Vi baceremo. Grazie. Tutti, ecco, qualche distinguo c'è scritto, qualche distinguo. Sì, anche te baffo. Sì, no, sei mio baffo. La verità è che, dimmi, spesso mettiti vicino al microfono, piace. Spesso per far funzionare qualcosa bisogna sorprendere l'ascoltatore, perlomeno quando io ascolto qualcosa mi piace che il disco sia cioè abbia qualcosa che mi illumini. Questo? Ho capito. Le telecamere ti hanno immortalato in questo momento che hai fatto questo. Cioè, abbiamo capito, da quello proviene tutto. Esatto. Okay. Bene, 23:37, Marco, facciamoci un altro pezzo dal vivo, dai, forse. Siete pronti? Ne facciamo uno alla Heidi. Alla Heidi. Quindi Peter and Clara. Ah, benissimo. Lo so fare. Lo sai fare. È molto semplice. Thank you. quasi... Bravo Claudio! Un finale quasi impressionista, no? Proprio, assolutamente. Il nostro bassista ha recepito anche, come si chiama lo strumento, la fisarmonica, tipo fisarmonica, la clavietta, come si chiama? Clavietta. Quindi tu suonavi la clavietta e anche le tastiere praticamente, contemporaneamente, e cantavi contemporaneamente. Benissimo. Il nostro direttore d'orchestra adesso sta bevendo, si sta dissetando giustamente, però ha perso due, tre, hai perso le bacchette, ti sono cadute le bacchette. Te l'hanno tolte. Il chitarrista ha tolto le bacchette. Hai perso il ruolo. Scusa Paolo, scusa. Il potere. Sono molto arrabbiato con te. No. Il nostro batterista però è sempre coerente, lui non si muove mai, sta sempre perfetto nella sua posizione. Continua oggi. Perché è impossibile muoversi. Mi hanno detto di fare il buono. Perché stanotte monta le tende. Ah, ho capito. Ecco. Il campeggio. Sì, perché dopo i ragazzi. Buio. Noi abbiamo dato nulla da bere questa sera. Ah, perché? Sì, perché dopo voi, dopo il concerto, tornate. Date verso Vicenza, direte, forse. Sì, andiamo a. Ricoaro Mille. Ah, Ricoaro Mille. E dovete piantare le tende là, praticamente. Esatto. Benissimo. Ok, noi ci stiamo divertendo molto, non so Marco, cosa dici Marco? Anch'io, molto bravo. Ma molto sei sincero? Bravi. No, sono sincero, sì. Vero? Non mi crede. No. Sei mica vero, sai? No. Se sei sincero prendi uno strumento e suoni. Ma non sono capace di suonare, cosa vengo dai, a fare? Dai, vieni qua, ti sembra che io sono capace, dai. Passa lo strumento, là. È un po' difficile passare. Ecco. Facciamo una piccola sosta, sentiamo un altro pezzo da disco, cosa dite? Va bene. Ok, che brano hai scelto, ti ricordi? Allora, la traccia numero 9, che è la storia di una capretta educata. Benissimo. Cioè, il titolo non c'entra nulla né col testo né con la musica, è soltanto dedicata al chitarrista, che è un esperto fotografo. Bene. E ha fotografato questa capretta, visto che si è prestata alla sua attenzione, è stata educata, ecco, quindi il titolo nasce da questa capra. Bene. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Thank you. Mi suggeriva sta finendo, sì, ma poteva continuare, non c'era mica problemi, poteva anche continuare, cosa dici? No, io ti aggiornavo, sì, ma è giusto, stava finendo la canzone, è giusto, era così. Perché anche se parlo però è un orecchio sempre, sì, mi pare giusto, è una cosa che avete fatto, c'è il tempo, c'è il timer, non mi permetterei mai di invadere il suo lavoro, devo stare molto attento, devo stare chiedo perdono, no. Per l'invadenza, no. Tu hai detto una cosa giustamente, il microfono era spento, giustamente, tu non mi ricordo mai, Gian Domenico ha detto giustamente, un esterno ma fa parte del gruppo di Rockwave, diceva che le atmosfere dal disco sono le atmosfere, come abbiamo citato prima, molto vicine ai Suguros, ai Mum, quindi molto nordiche. Ma tu, Celeste, hai detto un'altra cosa, dal vivo è tutta un'altra roba. Sì, dal vivo questo aspetto così intimo e racchiuso a volte si perde, perché è molto più impulsivo, più ritmico, sovrapposizioni, non prevedibile, suoni, assolutamente storti, non prevedibile, esplosioni, poi no, poi sì, poi no. Quindi dà un po' anche a gruppi americani come... o canadesi come gli Arcade Fire, ecco, questo modo un pochino più energico che non solo avvolgente. Sì, meno cameristico il disco, piuttosto, esatto, cameristico. Sì, sì, sì, sì. Poi dicevamo che a volte siamo stati seguiti anche da violini, oppure i brani hanno subito degli arrangiamenti con dei fiati. Sono state delle belle esperienze, però andare in giro è un po' pesante. Troppi è dura. Ecco. È dura in tutti i sensi, sia economico, sì. Soprattutto economico. Sì. Voi venite col furgone, avete cioè, riuscite a portare avanti un discorso decisamente importante anche come quantità, però mica si può fare tutto quanto, chiaramente. Però gli archi sono molto delicati, sono decadenti gli archi, vanno bene con la vostra musica. Cosa dici, Marco? Sei d'accordo? Alzo le mani. Lui è il Tom Jones della radio. No, è mica vero lui. Blue Veneto. Lui stasera io sarei ospite del suo programma, che stasera c'è il suo programma. più ospite per ho rispetto, fatto l'invadente. Per rispetto all'età. Ecco, ti ringrazio. È proprio così, per rispetto all'età. Sono un po' vecchietto rispetto a no, tutti. No, anche voi. Per la cultura musicale che hai, che no, è al di sopra di noi, quindi. No, siamo tutti. Siccome ne sento anche loro, specialmente la Celeste, la sento molto preparata culturalmente, sia per quanto riguarda la musica, ma sia anche per quanto riguarda. Ma voi chiedetemi la musica classica, quello so no. Tutto. Ma sai che non solo la musica classica, le altre cose magari un po'. No, non perdi, no. Ti sei espressa benissimo fino adesso, sono 23:50, quindi benissimo. Da allora ad ora in poi non parlo più. No, perché no, è che non facciamo Marco, non facciamo la solita domanda che noi facciamo a tutte le sarei anche curioso stasera di avrei della curiosità. Due dischi solo da testa, dai, una cosa veloce, molto semplice, siete pronti? Parlerai anche te, parlerai anche il bassista, deve parlare anche il batterista. Okay. I due dischi da portare su un'isola deserta. A vostro per noi? Per voi, i vostri preferiti da portare su un'isola deserta, i vostri... A vostro... così. Oddio. Beh, spara. I secondi stanno passando, Allora, Debussy, La Voix de Juju. Quella è uno. E poi? Poi ci mettiamo Arvo Part, Tabula Rasa. Ah, bene. Marco, scusa, è il nostro direttore d'orchestra, vai. Sempre vicino al microfono, per piacere. Grazie. Prova. San Severino Marche, prova. Akron Family, Love is Simple. La so! E poi? Vorrei essere Cage al programma televisivo. Direi Sigur Rós, così mi sputtano. L'ultimo album mi piacerebbe tantissimo pronunciarlo come faceva prima, ma non potrei. È possibile, in realtà dovrei dire il secondo per essere alla moda ed essere più fico d'Italia, ma no, è l'ultimo quello che mi piace di più. Benissimo. Il nostro batterista, ce la fai arrivare vicino al microfono? Ecco, adesso te lo portano vicino. Allora, ecco, come diceva Celeste, siamo amanti degli Arcade Fire, certo, quindi il Funeral degli Arcade Fire. Bello, bellissimo. E poi... un altro amante che fai quel signore là che è dietro il microfono. A posto. Vieni a Lucca? Quando è che sono a Lucca? 9 luglio. Ah, quindi fra una settimana, quindi è abbastanza... Sì. Dici, ma è sabato? Stanno arrivando. È sabato, sì. E Melancholy and Infinite Sadness degli Smashing Pumpkins. Benissimo, bellissimo. Il nostro bassista, anche se in versione fotografo stasera, vai. Ok Computer, Radiohead e Funeral. Sempre gli Arcade Fire. E te, il nostro chitarrista? Sono un po' più commerciale, mi porterei Into the Wild di Eddie Vedder. Sì. E l'unplugged acustico di Nirvana. Ah, l'unplugged acustico di Nirvana. Ottimo, ottimo. Bene. In Nirvana arrivano sempre, in ogni caso. Sì. Arrivano sempre. Per via traverse, ma arrivano sempre. Vero Marco, è sempre così. No, beh, finalmente sento dei dischi che sono adatti alla loro età. Perché altre volte sentivo che a gente più giovane di voi che dava dei dischi degli anni 50, non so. Almeno con voi ho sentito dischi della vostra generazione, quindi quasi tutti, insomma. Esattamente, questo è vero. 23:53, ragazzi, dobbiamo suonare sempre ancora. Suoniamo. Dai, cosa? Suoniamo Black Keys, un omaggio a tutti i tasti neri del pianoforte. Questo so com'è nato. Dimmi. Un giochino a scuola con i bambini, suonando tutti i pesci neri del pianoforte, che erano i neri. E da qui è nato questo motivo molto frizzantino. Benissimo. Con le bollicine. restando in tema improvvisazione, bravissimi, il batterista improvvisato, sì. La voce è caduto, gli è caduto anche, ha smontato tutto. Posso dirti, Celeste, io e Alberto abbiamo scelto per un mese consecutivo questo pezzo, l'abbiamo messo un sacco di volte, quindi è bellissimo, bellissimo. Siete stati, grazie, bravissimi, avete fatto una performance straordinaria secondo me, e va bene la performance straordinaria verso mezzanotte, fanno bene le performance di un certo orario. Cosa dici, Marco? Ho visto questo pezzo, l'ho visto su un video su internet prima di venire qua in radio. Pareva ci fosse più gente però sul video, o eravate solo voi? C'era tanta, c'era gente. Tanta gente che, esatto, eravamo noi più tre fiati, no, due fiati e tre violini, tre archi. Più gente. Ma infatti c'era tanta gente, sì, quella era, mi ero un po' preoccupato questa sera, infatti era la presentazione del disco, quindi esatto, risale ad ottobre, esatto, che poi è uscito la prima settimana di novembre, quindi abbiamo fatto un'anteprima nel nostro paese in un teatro, è stata una bella occasione. Beh, è stato un pezzo molto trascinante, sì, fatto sia dal vivo sia dal disco, anche dal disco è molto trascinante, qui l'avete fatto in maniera bellissima, cioè proprio con tanta forza, con tanta volontà, con tanto divertimento. E poi questo è uno di quelli dove compare acqua e coriandoli nei timpani. Ah, ho capito. Sì, fa parte della coreografia del paesaggio. E, prima l'acqua e poi coriandoli, sì, ma la prima edizione era con l'acqua, avevi detto, e ti ha rovinato tutta la tastiera. Ma l'idea dell'acqua chi è stata? Sua? È stato lui, sempre lui, direttore dell'orchestra. Anche questo non è imprevedibile. Così, non è proprio così, è la tua l'idea. È nata da un nostro amico che è andato a vedere il concerto dei, aiutami, dei Temper Trap. E i Temper Trap praticamente su una canzone mettevano l'acqua sul tamburo e l'acqua schizzava. Cioè, l'hanno fatto in tanti. Però quella sera lì non lo sapevo neanche io che l'avrei fatto. Ho capito. Hai risaputo di tutti gli altri, praticamente. Sì, sì, sì. Si è arrabbiato il fonico, il microfono. Il microfono! Perché noi non siamo i Temper Trap, l'ho capito il libro. Capito. Benissimo. È mezzanotte esatta, meno 10 secondi, ma andiamo avanti un altro pochettino. Facciamo un altro pezzo live perché dobbiamo tirare fuori tutta la grinta che avete. Dai. Va bene, allora facciamo questo brano che è un omaggio alla nostra regione. Sì, alle Marche, allora. Poi vi faremo noi la domanda. Sì. Before you want to do geometric playing. Yes, okay. I know. Ora eseguiremo Geometric Plane, tratto dall'album Aedi Metaidi. Aedi. Thank you. questa danza così bella? Stai facendo una domanda praticamente. No, non so come definirlo questo pezzo. Sei partito dalla musica molto seria, calibrata, classica, e poi sei arrivata a certi gruppi inglesi. Siamo tipo attori. I Levels, vi ricordate i Levels? Siamo attori perché... Siete attori. I Levels che facevano delle cose simili tra il folk e poi allargavano considerevolmente un po' tutto e mischiavano un po' tutto. Qua avete mischiato tutto. C'è un tutto. Po' una... La danza popolare tipica delle Marche. Sì, questo il saltarello marchigiano. E l'avete ripetuto e corretto. Fatto con l'organetto in realtà, no? E con la tua voce... Che è un po' da nonna. È un po' da nonna, sì. È un po' da nonna, sì. Però sì, hai cominciato con un pezzo classico, cioè sì, molto delicato, molto da camera quasi. Molto Debussy, esatto. Quindi di un certo livello. E poi ti sei sviluppata e è arrivata a musica popolare. Bello così, no? Cosa. È la caratteristica vostra, possiamo dire questo? Siete sì, d'accordo? Questo non fermarsi mai a un punto, ma sviluppare il punto focale e poi in tutte le diverse salse, tutte le diverse immagini, tutte le diverse rivoli, strade, eccetera. Magari anche ad arrivare a un tipo di pubblico che uno non si aspetterebbe, cioè sì. Magari non con un orecchio predisposto a un certo tipo di musica, quindi abbiamo sempre avuto la fortuna di arrivare un po' a tutti, cioè, dai bambini agli certo. Adulti. Tu hai parlato di bambini, fai l'insegnante di musica per i bambini praticamente. Pianoforte. Per pianoforte. Pianoforte propedeutica, cioè i bimbi che stanno sotto gli elementari, quindi alla materna. Appena i progetti alla scuola materna, quindi attraverso lo strumentario ORF, come vedi, ha invaso questa stanza, legnetti, triangoli, tamburelli. Maschere, quelle del nostro direttore d'orchestra. Pagliacci vari, in senso positivo. Si fanno delle combinazioni ritmiche, degli ostinati semplici anche, però è il giochetto del pezzo prima, solo per i tasti neri. Quello sì, questo fa parte di una delle prime lezioni al pianoforte, quando ancora non sanno qual è il do, eccetera, eccetera. Il primo contatto è sui tasti neri, certo, appunto certo. Con la pentatonica ha questo suono che ovunque vai suona bene. Certo, sì. E anche l'altro pezzo, il testo che avete fatto adesso. Ovunque questo vai suona bene. Dimmi. Ovunque vai, certo, anche certo. Il nostro pezzo suona bene. È Santarello, sempre bello, è una musica popolare, chiaramente. Bello, a me è piaciuto moltissimo questa creazione che avete creato dalla musica classica alla musica popolare. Avete congiunto due cose. Collage, dimmi. Lo diceva prima Aldo. Che cosa ha detto? Che ogni CD anche secondo il nostro punto di vista deve essere un cambiamento, perché certo. Il cambiamento porta innovazione. Se noi ci fermiamo tutti lì senza sperimentare, al di là del successo e il fallimento di quello che andiamo a fare, poi è banale. È vero, e Aldo Tagliapietra era un grande sperimentatore, è sempre stato un grande sperimentatore con le orme, ha fatto tante cose semplici sia all'inizio, ma poi nel disco delle orme stesse, ad ogni disco c'era sempre qualcosa di strano, di sperimentare. Questo pezzo che ha seguito, che abbiamo accostato adesso, che sì, a Debussy, no? Molto caro. Debussy e Santarello, sì. Praticamente è stato anche accostato a un pezzo delle orme, I Marinai, ovvero il per giro di pianoforte. Motivo, noi lo sapevamo proprio. È vero, sì. E lui quindi, l'ha eseguito. Viva le orme. Viva le orme. Poi l'avete conosciuto in diretta qualche minuto, un'ora fa circa. Però sembra un minuto. E sembra un minuto, sembra è vero. Un minuto. Hai detto una cosa giustissima. Dammi solo un minuto. No, quello è un altro gruppo però, non c'entra niente. Non c'entrano niente. Marco, cosa dici? No, no. Non parla. Sono completamente spiazzato. No, è veramente una cosa incredibile. Sì, noi abbiamo visto tanti gruppi, però praticamente di... No, ce ne abbiamo avuto qualcuno anche sì. Che aveva questo passaggio tra il folk e il rock, però voi siete veramente, nel senso buono, fuori di testa. Sì. Senza schemi assoluti, anche se non è vero. Però qua in questo momento... No, però mi viene da pensare che dal vivo, secondo me, sarà ancora peggio, presumo, no? Mi immagino in studio come fate a stare tranquilli e a seguire gli schemi, quello sarà un po' difficile per voi o no? diciamo per che me tanto. Perché per me tanto. Vedendovi così, cioè voi partite con un'idea, ma mi dà l'impressione che finché suonate poi vi divertite a cambiare, ma in studio deve essere difficile fare questa cosa qua, Però ci siamo sempre adattati bene. Dai, finora. Stasera l'animale qua dietro è calmo, è lui che gasa tutti. Ah sì, è lui. È colpa sua. Accelera, frega, fa un sacco di stop and go, cioè non si capisce più niente praticamente. A proposito, probabilmente con le telecamere si è visto, ti è caduto, sì, abbiamo detto, sì, ma ti è caduto bene, non è così, è andata bene. Era nella foga per dissuonare, chiaramente era stata cosa. Beh, fa parte dello spettacolo dal vivo. Questo è live assoluto. Sono 24 e 10, è tutto in diretta, non c'è niente di registrato. È tutto assolutamente va bene. In diretta. Live. Bene, dunque, abbiamo anche un pezzo da disco, la traccia numero 10, che è un po' particolare, vero? Sì. Poi descrive un momento Celeste, anche gli altri, non mica deve parlare solo Celeste, chiaramente. No, facciamo parlare solo Celeste, facciamo parlare allora, solo Celeste. È particolare perché nella registrazione è rimasta ancora la prima volta che è stato eseguito, cioè in camera mia al pianoforte, ho fatto questo brano e l'ho registrato con una fotocamera, per poi in sala prove farlo sentire al resto del gruppo, certo. No? Parlarne insieme. Quella registrazione è rimasta in realtà per sempre, perché l'abbiamo messa nel disco. Ah, non è stata così, più cambiata. No, amatoriale, con i movimenti del pedale, lo sgabello che si muoveva. Poi, alla coda finale di quella registrazione, è stata messa l'incisione in studio. Quindi si sente proprio il passaggio da questo suono strano, un po' offuscato, a un suono più aperto. Ah, però, è un'idea, chiaramente. Un'idea. Bene, la sentiamo adesso. Okay. Adesso che ho svelato il segreto, però beh, non è importa. Tutto più facile. Perché? Tontolona. Tontolona. Attenzione, perché quella traccia, caro DJ, c'è una traccia nascosta. La facciamo andare? È dopo un po'. Vabbè, io ho visto la durata del brano, quindi mi regolo. Poi tu, mettiamo la traccia nascosta. Ok. Grazie. Prego. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Thank you. Sì, solo la Rock Wave e Marco facciamo le tracce. No, ma poteva farla in diretta però. È giusto, poteva sì farla, potevi in diretta, in diretta, no. Così tagliavamo i quadri. No, vabbè. Mamma mia, mamma mia, bella noca. Bravo direttore d'orchestra, fai un'altra volta, come va? No, girati però. Ok, basta, va tutto bene, va tutto bene, tutto bene. Beh, questo come si chiamava questo pezzo celeste allora? L'ultimo? Sì, che abbiamo sentito adesso. Tintuntan. Tintuntan, benissimo. E la traccia nascosta compresa. E la saxo risata. Benissimo. E l'idea di farlo l'hai già spiegata, però potrei puoi allargare l'idea che avevi già spiegato in precedenza. Di mettere queste doppie, perché era molto suggestivo, poi come chiusura del disco ci sta bene. Sì, certo, ci sta bene. Per dare un certo colpo a chi li ascolta. Sì, lascia un po' così. E lascia un po' così. E sì. Che succederà? Poi uno va in auto, continua la conversazione col compagno. A un certo punto. Cos'è? Mamma mia, che paura! Drogata. Guarda, è inaspettato proprio. Perché è dopo tanti minuti è un livello di volume abbastanza alto. Forte, causa di vari incidenti strutturali. No, speriamo di no, assolutamente. Una cosa volevo chiederti, questo è il disco che avete fatto, avete qualche altro pezzo che nel disco per motivi diversi non è andato dentro? Tanti? Voglia. Allora, in verità noi ogni volta che esce un disco iniziamo i live, certo. Già quei brani non li suoniamo più. Ah. Perché suoniamo quelli nuovi che stanno già per dire. Ma avete un sacco di dischi in cantiere o presunti? No, nel 2009 quando è uscito l'EP già c'erano tutti questi di Element Hive, quindi appena registrati già c'erano dei brani nuovi, cioè in continua fase evolutiva e cambiamo nei concerti, magari inserendo qualcosa che non è uscito da nessuna parte proprio come prova per testare un po' l'impatto col pubblico, vedere la reazione eccetera eccetera, quindi al momento abbiamo molti brani che non sono stati incisi da nessuna parte, che faranno parte del prossimo disco, faranno parte sì sicuramente del prossimo del prossimo disco, che si allargherà molto di vedute perché ci sarà una produzione straniera. Ma avete già... avrà un vento un po' diverso. Questo vento di questo disco è stato portato anche all'estero e c'è possibilità? Sì, ci sta arrivando. Arrivando, siamo in contatto con qualche produttore, benissimo. Adesso abbiamo esattamente 10 minuti prima della fine del programma. 10 minuti per fare due pezzi live. Cosa dici, Marco? Due sono tanti. No. Uno che ne dura 9, sì. Doveva fare il pezzo da 10 minuti. Ah, bene, quello dura 9, va bene. Allora, okay. Benissimo. Allora, facciamo Flower Moon. Sì, allora ci salutiamo prima. Così dopo facciamo questo pezzo da 9 minuti. No. Dimmi, le date. Dimmi le date. Vai, vai. Il cartellino. Vicino al microfono, mi piace. Sa, prova. Buonasera. Buonanotte ormai. Buonanotte. Indicherò le date della band Aedi. 25 di giugno, cioè domani sera, Recoaro 1000, Babilonia Festival. 2 di luglio, 7 stanze in cerca d'autore, San Benedetto Po, Mantova. 2 agosto, quindi un mese, no? Maremoto Festival, San Benedetto del Tronto, AP. Ascoli Piceno, AP. Ascoli Piceno. A posto. 4 agosto, What is Rock? Festival, Porto Maggiore, Ferrara. 6 agosto, Pop Sofia, Civitanova, Marche, MC. Che Macerata. Non è... Ah no, Massa Carrara. 26-8 Firenze, Festival Contaminazioni. Vi vogliamo bene. Bene, ce l'hai fatta. Abbiamo detto tutte le date di questa band straordinaria. Aedi, è giusto così? Mi hai pronunciato giusto? Con cosa terminiamo questa cavalcata di 9 minuti? Terminiamo e con Flower Mundals, che è un brano del passato. È una prova per noi vedere se lo ricordiamo. Benissimo. Grazie a Marco grazie Borgato. A voi. Grazie a voi. Grazie per l'ospitalità e grazie della bella compagnia. Grazie dello spazio. saluti e baci. Ringraziamo anche il nostro direttore che va scelto. Grazie Alberto! E ci sentiamo chiaramente noi di Rockaway la prossima settimana con Stefano Dainese dalle 22:30 alle 24 con Marco venerdì prossimo. Ok. Ok. Buonanotte. Bye bye. Grazie buon di ascolto. Tutto. Buonanotte. Thank you. te.